ci cucano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Uia! E cosa c'hai? Niente, sono tutto pieno, mi ho mangiato un po' leggermente tardi. Adesso qua c'è il sole che illumina il divano, bijou, oggi è bella giornata. Lo so, io stamattina sono andato a farmi quell'esame lì a Platanona, però sta per mettere maestrale malassorte e non ci posso andare a pescare. Via, con chi vai? Con Franco? O con chi? Sì, con Franco andrò. Secondo te quale fa più per il Nel frattempo mi sono preparato i mulinelli per quelle per i calamari stamattina, mi ho comprato la lenta nuova. E com'è in questo periodo pescoso? Tu eri andato già o è la prima volta che devi andare? No, già ne hanno pescato, già, però io non ci sono ancora andato, adesso dovrebbe essere la prima volta che fa bella, cioè che il mare è tranquillo là, che non è come era stamattina. Allora vado e faccio una strage come l'altra volta di seppie. Con seppie, ma con la, come si chiama quell'aggeggio con i ami dietro, la totanara? Eia, con la totanara vado, con le totanare, che ne è un bel po'. Ciappa. Me la ricordo, io però non l'avevo mai sfruttata, una ne avevo, l'avevo presa per prova, però magari non sapendo i punti di passaggio non c'è storia. Se non ricordo male era pure fluorescente, cioè la illuminavi un pochino con una pila di notte e tratteneva un po' di luce, no? Già l'hai capito. E ci vuole una pila infrarossi, grazie che me l'hai ricordato, che non la trovo più quella che avevo io. Pila infrarossi, perché infrarossi? Per non far vedere dove state pescando. E tanto qualche luce dovete averla di notte, non è che avete la vista infrarossi, no? No, per illuminare le totanare. Non c'è il diavolo, quello che ha trovato il vaccino antipolio. È per quello che serve. Ma uno lo può illuminare anche con le luci normali. Voi cosa usate? Come per innescare tutto, cosa usate? Luce elettrica, cioè torce a pile oppure la lampada a gas, come si usava una volta? No, abbiamo quelle per la testa, le lampadine, quelle pile che si mettono in testa. Le torce da fronte, sono utili per tutto quelle. Io le ho usate anche per fare piccole cose qua di elettronica. E in più devo mettere anche gli occhiali per ingrandire, perché io la mia vista non è più quella di una volta, ho bisogno di quegli occhiali che ingrandiscono più la luce e almeno riuscivo a vedere le cose piccole, sai, piccoli ponticelli da spostare, micro ponticelli, qualche micro saldatura da ritoccare, cosa ne so io, anzi no, micro un cavolo, normali saldature. L'SMD non è roba per eletti, non è roba per me. Lo so, per quelli lì ci vuole la stazione saldante, ci vuole il tipo che sappia saldare bene. No. Sì, lì ci vuole uno che abbia una buona vista, vabbè, uno può usare anche, se si usano una specie di microscopietto, no? Ci vuole anche la pazienza di un santo però, mano ferma, e io non ho né l'una e nell'altro. Sei diventato vecchio, Marco Lia. Aspetta, mi sta chiamando la vecchia. Ogni momento ce n'è una. Ah. Tu. Fatto quello che devo fare. Ogni minuto ce n'è una. Non è che mi dice tutto assieme, no? Capito? Aspetta che mi sdrai per riposare. Poi siccome non senti, io lo rispondo. Marco, Marco, ehi, Marco, alla fine sbotto e niente. Billy, lo so, anch'io ai miei tempi ho avuto problemi, invece di averne uno ne avevo due, c'avevo a babbo e a mamma, tutti e due ce li avevo. Ciao Manuel, ben sentito. Sì, ma non mi avevi accennato, Natalia, anche che andavano piantonati. Oh, il baule lì. Quello era più impegnativo, vedi? Sventiata, ma lucida, no? Si muove anche, fa danno anche, soprattutto quando si muove. Lì era diversa la situazione. Mi seguo la sala, che sarà che un po' da. Vabbè, mamma, volevano piantonati, sì, perché babbo non capiva manco dove stava di casa, poverino, gli avevano bruciato il cervello. Sì, qualche colpo, chissà chi c'è vicino, in qualche canale vicino sarà, compando. Cosa ti volevo dire? Emanuele è entrato. Lo sai che me lo coprono? Emanuele! Me l'hanno coperto, maledetti. Se mi ascolti, Emanuele, ben sentito. Salutano a tutti e due comunque. Ho messo in vendita quel 4,40, non so se te l'avevo detto, Marculino. Aia, quando io ero contigo io sì, con la lenta, con il che muta, cano, a casa un strike di che non funziona sulla 27. Però come ricevito è redondo. Io non so quanto costi nuovo. Ok, buona tale, a chi ti costa? Buona tale, ti trovi 500 euro. Anche meno. Già li trovi quelli lì. Ma io che il mio funziona tutto, la M solo che non funziona. Perché in FM in mano laterale va bene e in tutte le altre bande è perfetto. Capito? La commutazione della M che è andata a farsi fottere del resto, ma io non ho né antenne per poterlo usare come ricevitore, né voglia e soprattutto non voglio perdere tempo. Perché non ne vale la pena, la carina. Sì, poca roba anche a 27 però, mamma mia. Vabbè, certe volte lo lascio acceso, certe volte no, certe volte col volume a zero, manco me ne accorgo. Ma mio, ho caricato giusto il ricevitorino Texun lì. Oh no, come si chiama? Quello che hai tu? Quello sta buono, questo sta buono. Quello HF. Però lo devo spolverare, gli devo fare il bagno e la centrifuga pure. E io ce l'ho sempre acceso qui. Ho messo quella col lineare fuori dalla finestra e già ascolto. Ma non è che me ne freghi più di tanto. Mi sono proprio disgustato. Ma e qual è la collineare? Quella Diamond, per la macchina collineare che avevo, quella da 1,5 metri. Ah, ma tu stai dicendo VVU? No, no, io ti sto prendendo del ricevitore a HF. Ah, ce l'ho anche io, l'ho caricato. Ce ne abbiamo uguali, ce abbiamo sia quello bimbanda, cioè bimbanda, ricevitore, e l'altro per le HF, sì, ce l'ho anch'io qua quello. Però non posso piazzare quell'antenna perché è troppo visibile e mi dicono che disturbo, se no. Mi hanno già detto che disturbavo e io senza usarla l'antenna, che poi se la usavo in ricezione, non in trasmissione, però la gente sai com'è, non si fida dei potenziometri, sono ignoranti e asini allo stesso tempo. Ti ha conseguito ahí un amplificador y se lo tira ahí en una esquina. Y lo usa de cuando en cuando. Prendi, Manuel. Ha chiuso? Beh, evidentemente sì, visto che non possiamo sentirlo, se ne sarà andato. Mi dispiace. Sono andato stamattina a fare quella visita lì alle vene, non c'è un cavolo. Dimmi tu, quindi non dipende né dal fumo, né da questo, né da quello. Bisogna camminare e basta. Ma tu è per la vena della gamba si è andato, no? Ma alla fine il dolore da cosa deriva? Dall'aneurisma sovravenale? E allora, quello lì bisogna tenere sotto controllo, e basta. Anzi, il segnale lo vedi? No, non ci ho fatto caso. Io l'altro giorno ho usato il 5-5, vabbè, quello lì no, non so quante 5 abbia, ho perso il conto. Poi ho usato il 7009, devo fare un po' il giro, se no a lasciarli fermi guai, se guastano. E quello è poco ma sicuro. Quello lì si è guastato, nel senso perché era fermo, quel 44. Oppure era destino. Io cos'è che avevo da poco? Qualcosa di elettrico, di elettronico, a parte il cellulare, così da un momento all'altro, puff, non funzionava più. E l'elettronica è così, è come le persone. Comunque sto continuando Natalia a vedere gente morta, giovane, l'altro giorno una madre di, quant'era, 39 anni, bella, sana, con dei figli piccoli, morta nel sonno. Ma loro improvviso, morta nel sonno. Un'altra, una TikToker conosciuta, una bionda di non so dove, giovanissima, morta anche lì, morta nel sonno. Tutti questi, oppure malori improvvisi, adesso non mi ricordo chi è morta nel sonno e chi no. Un'ecatombe di malori improvvisi e tutti, il Signore li ha chiamati. Ma non mi faccia bestemmiare, quando sento quelle notizie mi girano le scatole, guarda. Aspetta un attimo che devo andare a aprire. Eia. Prova, prova. Prova, e beh, non funziona. Eccolo. Prova, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. Prova, prova, prova, prova, prova, prova. Prova, 1, 2, 3. Sì, sta andando. Signorina qua e gli trovando i biscottini. Una signorina, ma è una felina o roba del genere, quattro zampe? Canina è. Come? È canina. Ah, canina. No, perché l'altro giorno ho visto la foto di un gatto che mi ha mandato, ma non ho capito di chi è il gatto. Di Adriano, è di Adriano il gattino. Questa qui si chiama Artemisia, è una cagnetta che ha quell'amico mio medico, veramente ne ha due, e li portano assieme al mio cane, capito? E quindi viene qua a pigliare i biscottini, la prima tappa la fa qua lì, perché lo sa che gli do i biscottini, e allora viene qua. Invece stavo notando che Flo in particolare faceva vomiti di cibo, non di peli ma di cibo, e riusciva a trattenere poco. Ho detto vabbè, la porteremo dal veterinario. Invece ho sospeso da due o tre giorni, ho sospeso i croccantini generici, quelli generici proprio, no? Senza ripieno, senza niente. Sarà un caso, però Flo ha smesso di vomitare, perché i croccantini generici, io sentivo, cioè i croccantini sono secchi e a lungo andare al gatto gli può dare fastidi anche renali e gli prendono la nausea e a vomiti. E mi sa che se è così non glieli do più, gli do solo roba umida. Il problema è che Flo mangiava solo roba secca, croccantini, stecchetti. E vabbè, gli stecchetti sono ancora un po' leggermente umidi. Capito, Natalia? Sì, devi mettere l'acqua, perché sennò i croccantini gli fanno male, i croccantini soli. E quindi i generici non glieli dare più. Vuol dire che non li sopporta più e vomita per quello, poverina. Sai cos'è? Lei mangia solo quelli, cioè mangia solo croccantini oppure gli stecchetti morbidi, no? Che li sminuzzi col dito. Però se le fanno male, adesso è, magari un caso, mi è stato un caso, però ho preferito toglierli. E a Malagana si sta mangiando un po' di roba umida, si mangia un po' il sughetto di quei bocconcini. Ah, peraltro Natalì, croccantini, quando io dico generici, non voglio dire marche di chicchia. Io le stavo dando i Purina, sono anche buoni come marca. Poi ci sono specifici per gatti sterilizzati oppure per gatti, non so, adulti. Però probabilmente il Rere ne soffre, comunque acqua a furia dura, acqua gliene do sempre, l'acqua non manca mai. No, ma l'ho spiegato anche mia zia che alla lunga ne soffrono i reni e allora cominciano ad avere questi vomiti. E vabbè, d'altronde gli atomi in natura dovrebbe mangiare solo carne di così, preda che riesce a prendere, capito? Uccelli, roba del genere. Questa roba che gli danno è tutta piena anche di farine vegetali, cioè roba che loro in natura non mangiano, capito? La carne bisogna dargli al gatto. L'ho cercato in tutti i modi. Perché ha proprio bisogno di quella, se no non va bene. Non va bene, i croccantini sono fatti chissà da cosa. Io ho anche provato carne cruda, carne cotta, carne di vario tipo, però a Flo non piace, la carne non piace. Sì, ogni tanto si lecca il sughetto di questi bocconcini, quelli che hanno molto sugo, mi sughetto. Le piace il sapore, però carne non ne mangia, poi sono disabituati, bisogna abituarli da piccolo a mangiare carne cotta o cruda. Pensa, in natura loro la mangerebbero anche cruda. Purtroppo però, infatti mi fa bene Gianni, anziché dargli i croccantini o roba strana, crocchette, gli dà la carne bella, gli cucina la carne, capito? Poi sì, ci può mettere l'inter qualche ortaggio come così per accompagnare, però il cane mangia carne. Altro che scatolette, altro che croccantiname. E infatti il mio mangia quello che mangio io, il cane, non gliele donno di crocchette, mai date. Infatti è andato dal veterinario, il veterinario era stupito perché non glieli cagava neanche i croccantini. Mamma mia, la biocco nel guatto. Invece no, devo andare al computer e fare roba. Devo fare le recensioni di quegli oggetti elettronici che mi sono arrivati l'altro giorno. A 555 propagation, ma ce n'è. Ah boh, io sono sguarnito, c'ho sempre quel presidente piccolino, omologato, piccoletto, AMFM, boh. Mi sta piacendo questo. Niente fronzoli, niente eschi, cavolate, modi di emissione, clarifiche, niente. Premi e parli, boh. Tanto mi. Però io parlo sempre a 555, vado lì, mi faccio qualche collegamento, almeno per passare il tempo, capito? Ma adesso mi devo mettere a camminare la mattina per forza. Lei anche io dovrei andare più a piedi, però mi stanco un bel a piedi. E poi o lo fai tutti i giorni di fare un esercizio fisico, o farlo una volta ogni mese o ogni settimana non fa, non serve proprio a niente. E vabbè, io avrei dovuto però da giovane anche fare sport e tenermi più su, la schiena non sarebbe nelle condizioni in cui è, eccetera. E io quanto sport ho fatto quando ero giovane, Marcolino, non vuol dire, io mi ammazzavo in palestra. Oh. A quanto pare alle vene non c'è nulla. Adesso mi deve vedere un altro chirurgo vascolare. Vediamo un po'. Cappa, tu cosa temevi? Cosa temevi? Placche sulle arterie, roba del genere, per via del fumo? Sì, quello è logico. Io ho avuto anche un infarto, ho avuto nel 2007. Ma quella si è accorta che ho avuto interventi, si è accorta. Ma c'è chi ha accorta? Mi ha chiesto se ho avuto interventi, sì, ho avuto quello alla colicite e quello all'ernia, gli ho detto. E mi stava controllando le gambe. Ma se ne è accorta, cioè era una domanda che ti ha fatto o era una constatazione? I medici di solito chiedono, ha fatto interventi, non è che lo chiedono perché hanno il sospetto dei fatti, ma è per sapere la tua, per conoscere l'anamnesi. Ah, c'aveva tutto lì, c'aveva. Cata, non si è accorta, gliel'ho messa sotto gli occhi l'eco addome che avevo fatto. Non ne ha manco guardato. Ma se io l'ho fatta da poco, me l'ha fatta la dottoressa, a caso me l'ha fatta con sé. E poi gliel'ho detto, l'ho fatta dall'Ecuador. E allora perché te ne ha messo un'altra? Chiedi da lì. Ma che faccio? Ci vado da quello di Porto Torres oppure no? Perché lo devo telefonare e mi dovrà dare un appuntamento questo. Prima mi faccio controllare dal collega di Gaia. E vediamo. No, per portargli il reperto bisogna chiedere l'appuntamento. No, portargli il reperto, voleva vedere il reperto venoso, che non risulta nulla, io glielo dico al telefono. Se no glielo dice al telefono. Io domani al telefono se riesco a rintracciarlo sempre. E glielo leggi. E glielo leggo. Così non c'è bisogno che ci vado. Magari se mi deve ordinare qualche cura, qualche cosa. E poi nel caso gli dice... passi tal giorno e mi porti il referto, mi dirà. Vediamo un po'. Natali, non per dire, ma la tua modulazione è un caos, si sente un avvoluto di fondo di TV, di voci che non hai idea. Sì, c'è mia moglie, c'è quel mio amico, c'è la televisione accesa, è logico che si sente di tutto e di più. Zappa, credo di sentire anche un americano che parla sotto, qualcosa del genere. Sì, guarda, l'11 tutto americani, il 9 tutto americani, quelli che parlano bye, sono quelle. Si erano tutti fatti con lo stampino, modulazioni tutte uguali, l'inflessione tutto uguale, capito? E gli americani parlano lo slang, capito? È logico, sembrano fatti con lo stampino. Ho collegato il Canada, Montreal, nel Quebec, e poi la Russia ha collegato anche. Putin, magari stava chiedendo asilo politico all'Italia. Che ne immagini? Se mette il piede, vabbè, non lo farebbe nessuno. Non c'ha quel mandato internazionale, come i criminali di guerra o cos'era? E infatti, questo qui è a 180 km dalla Polonia, la Russia europea proprio, e a pochi chilometri dall'Ucraina. E tutti e due, sia quello di Montreal che quello della Russia, stavano usando una cubica a due elementi. Me l'avevi detto, Sì. Vieni, Natalia, se vuoi andare a fare a vedere com'è la banda su, io adesso mi piaccio tutto quelle periferiche lì e faccio le prove che devo fare le foto per le recensioni. Cosa vuoi sentiamo più tardi, ok? Se coincide più tardi, io non ho voglia di passare a 555. Già rimango qua in ascolto, perché non ho un'altra antenna per poter ascoltare questo canale qua quando sono su. Ma io sai come, io stavo carellando, no? Sai come me ne sono accorto che sei entrato tu? Con quel ricevitore Uniden da tavolo. C'è anche questo canale in memoria, proprio l'ho acceso oggi dopo tanto. Stavo carrellando e ho sentito dal ricevitore, ebbene non c'è nessuno, qua l'ho in fretta, ho girato con la manopola e ho risposto. E adesso gira, me lo imposto lì e lo metto in scanner, così se qualcuno parla lo sento quando sono a 555. E parla con uno, parla. Antonello, sei tu? Eia. Ciao Antonello, sì, ce ne hai 8, grosso modo 3 e mezzo, dove ti trovi? A casa sono, ho messo un dipolo ieri notte, ho sentito il soffalfetto e al buio ho messo un dipolo, l'antenna alla mantova è crepata di cosa, si è staccato il cavetto che c'era già papiere all'interno, quindi la devo scendere giù, svoltarla tutta e ricostruirla. Ho capito, quindi non era il cortocircuito, era proprio il polo caldo dal PL all'antenna, così è? Esatto, sì. Oh, ci ha mai riconosciuto ieri, c'avevo la spesa grossa sulla pedana, tratto in moto, BBB eri tu e poco più avanti c'era Gian Piero, no? Esatto, sì. Stavamo rientrando dalla piazzetta che c'è, dove c'è Calfusa, dove c'è Ciccio. No, credevo che fosse da Eurospin, francamente. E io stavo praticamente andando ad Eurospin. Ah no, palle, non avevo la spesa, stavo andando ad Eurospin, sono passato a Piazza dei Cigni e come sono sceso lì ho visto voi. E poi mi sono fatto una bella caricata di acqua, di sabbia per gatti, a Giumai non riuscivo a portarla, da quanto era carica. Acqua grande, acqua piccola e poi l'acqua naturale anche per fare il caffè. Più la sabbia dei gatti che è già pesa di suo. Va bene. Nathalie, lo senti Antonello? Natalino? Sono qua che stava andando via quell'amico mio, il mio vicino di casa, il medico. E poi l'aveva ricomprata la bici. E l'hanno regalata una, più bella di quella che aveva. Quella che aveva era di quelle antiche, un peccato. Se c'erano state le telecamere, allora quando gliel'hanno rubata l'avremmo pizzicati. Maledetti, a tutto si attaccano qua. Guarda, c'è un ambientaccio in questo quartiere che, guarda, non si può descrivere. Ma sai in realtà cosa l'hanno peggiorata molto? Ce lo sai, sì, i diversamente bianchi. Sì, infatti, tutti troie, magnacci, cazzo, delinquenti, abituali, tutti così sono. Ehi, ti dicevo, lo copi Antonello? No, negativo, non l'ho copiato perché ce l'ho squelci. Per non sentire il QRM, mica lo metto. No, ma Antonello lo copi, abbiamo parlato in due. Faccio, avete parlato in due. Ho detto di no. Adesso apro lo squelci e vediamo un po'. Antonello, fammi vedere il segnale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, questo smitter 8, però questo smitter in realtà quando è 8 è 9, in tutti i baracchini normali è 9, questo è secco. Stranamente oggi ho poco QRM, mi arriva a 5, Antonello lo copio senza lo squelch, ho tolto lo squelch e già l'ho ascoltato, ciao Antonello. Ciao Natale, ben sentito. Ho usato un dipolo, è che la sera la mattina, ma la gatta prima, ragazzi, in pratica. Quindi adesso questi giorni qui, appena c'ho 2 minuti di tempo, salgo sotto al tetto, bisogna essere promotore in due, perché da solo ce la faccio a smontarla e a metterla in terra, capito? Da quando mi hanno fatto il vaccino ho preso forza nelle braccia, tutti e due, quindi non riesco più a sollevare il braccio, non più, capito? Uno, l'altro già ce la faccio sollevare, ma uno proprio a mezza. Purtroppo sono cose che succedono, ma la sorte. Meno male che solo il braccio. Stanno morendo gente giovane che guarda. È una cosa che non si crede. Ne ho sentito parecchi, morendo 30, 40 anni, ma io non si può morire a quell'età. Ed è tutto da chi su vaccino, non ne posso più. Io mi sento tutto messo male. Cazzo, salivo un quintale io. L'altra volta avevo un sacco da 25 kg di quel cemento, come si chiama, di quell'intonaco pronto, no? Tutto è andato bene quando sono arrivato al portone. Ho salito le scale, mi è mancata la schiena proprio. Qua, se non mi attaccava la ringhiera tornavo indietro. Perché così, quello è il sacchetto dentro, penso. 25 kg io. Con la carriola ce li posso portare, ma a spalle come facevo una volta, tu mai mangiavo. Infatti, poi non ho l'equilibrio che avevo prima. Cata, mi sento proprio, non lo so neanche io, come dirti. Già c'ho questo problema alla gamba, anche la schiena ci voleva. Guardo un dolore per un sacco da 25 kg che a una mano lo prendevo prima, una cosa del genere. Mi trasportavo i sacchi delle olive da 80 kg sopra le spalle. Natalia, ma forse eri più giovane, tu di quanto tempo fa parlavi? Quando ero più giovane, da poco mi portavo la bombola io, da solo, dal negozio, dalle bombole fin qua me la portavo, me la salivo e tutto, non c'avevo nulla. Cazzo. Adesso se ti sto dicendo, ho preso questo sacco di cemento pronto, di quell'intonaco pronto, quando stava già aiutando qua a me. Morto mi sono visto. Mamma mia, poi lì avete quei gradini antichi che sono alti lì, per carità, se cadi da lì ti distruggi. Ti sto dicendo che mi sono attaccato alla ringhiera in ferro che c'è, no? Se non mi attaccavo alla ringhiera a rotoloni me la facevo, quelle scale, mamma mia, perché mi è mancata proprio la forza della schiena. Ti sto dicendo, mi mettevo la bombola io, quella da 15 kg, sopra le spalle, me la mettevo e la portavo dal negozio delle bombole che c'era qua in Corso Trinità, fino qua sopra in casa. Andavo io a pigliarmela per pagarla di meno. Certo, non prendevo né macchina né niente perché era vicino, e andavo a piedi, mi prendevo la bombola e me la portavo qua. Se lo faccio adesso, guai. Per pagarla di meno, l'altro giorno sapevi per pagarla cara invece. Mamma mia, no, attenzione, guarda che questo vaccino ha sciabidato un bel di gente. Per esempio Antonello, come ha detto lui, è senza forze, ha perso le forze. Tu lo stesso, Luca lo stesso, chi era? Gianni mi pare lo stesso, dice che non si sente così stanco, così debole. Lui non è mai stato debole, invece dopo questi vaccini ci hanno sciabidato a tutti. Lo so Marco. Cazzo, a Luca Flipper gli è successa roba alla faccia, un tipo paralisi facciale. Mio fratello Angelo, il mezzano, quello lì c'è qua un occhio dal vaccino. Sì, sì, lo so, lo so. Però poi a Luca, oltre la Emi Paresi, gli ha lasciato anche debolezza. Io credo che il sump non lo possa più fare. Lui andava a pesca sump, cioè era un drago prima, metteva anche i video su YouTube. E adesso non credo che la possa più fare. Non penso più, Pio. A molta gente gli ha lasciato il segno questo vaccino. Io lo stesso non mi sono mai sentito così, cosa ne sapevo io? Ho preso il sacchetto dell'intonaco pronto, tranquillo, mi. Perché sapevo benissimo che potevo portare pesi ben superiori a quello. L'ho preso dal cofano, me l'ho messo sopra le spalle e non avevo nulla. Come ho provato a salire le scale, guarda, morto mi sono visto. Allora, questo vaccino ha tirato fuori il peggio anche di tutti, dei giornalisti che si sono dimostrati dei venduti, proprio venditori di spazzatura, i medici lo stesso, perché c'erano medici che a casa non sarebbero mai venuti a visitarti, dicevano ma c'ho gente, c'ho qua, c'ho impegni, invece per fare i vaccini correvano e come a casa a farti il vaccino, perché si prendono i soldi anche loro per ogni vaccino fatto, capito? E anche le persone ci hanno messo del loro, capito? Anche alcune persone, molte, hanno dato il peggio di sé comunque per questa storia del Covid e dei vaccini. E lo so, lo so. Infatti non mi faccio manco quello dell'influenza, nulla, non me ne posso vaccino. Sto dicendo, io non lo sapevo che ero così debole, soprattutto sul meridione, quando ho preso quel sacchetto lì. E dopo che me ne sono accorto, che lo so che non devo... Meglio il tempo a nord. Se salivo un quintale io, 100 kg salivo, c'avevo una forza indimoniata. C'avevo. Adesso sono diventato una larva umana. Beh no, però avevi riacquistato peso, c'era un periodo invece che eri proprio messo male. E 52 kg sono arrivato a pesare. Tutto per la previsione del tempo, grazie per la cortesia. Quando sono stato ammalato, 52 kg sono arrivato a pesare. Dimmi tu. È stato presentato? Ero tutta la pelle aggrinzita, c'avevo. Guarda, mi facevo schifo da solo. Anch'io, anch'io, però senza essere malato, anche senza operarmi, mi faccio schifo da solo. Va. Buon pomeriggio da non venire a dirlo. In Medio Oriente, l'esercito un po' quello che mi è successo in questi tre anni, manco al peggior nemico lo auguro. Vediamo se Antonello c'è ancora. Antonello, il dipolo ovviamente ce l'hai orizzontale, sì. A volo messo. E adesso verso la base del petto, là. Non l'ho messo in orizzontale, però a V. Ma a V come? V invertita? Eia, verso il basso però. Eia, comunque qua dopo tutto c'è, cioè, rispetto a Natalino, da Natalino 5 di segnale, qua sei praticamente 9, il segnale corretto sarebbe 9. Qua segna 8, vabbè mai. E lo Smith. E poi vabbè, conta che... E dove ce l'hai puntata, Antonio? A nord oppure? Non c'è ora, là. Ah sì, più giù, da, più a sinistra rispetto a noi. Eia, un po' più a sinistra. Conta Natali che comunque c'è anche l'attenuazione della polarizzazione, no? Già lo sai. Cioè, anche se lui lo puntasse proprio verso di noi, perderebbe circa 4 Santiago per via della polarizzazione che risulta diversa dalla nostra. Lo so, ma intanto è invertita, è omnidirezionale, è più, oltre a essere omnidirezionale, il dipolo la serve per arrivare a 50 ohm, capito? Se tu lo metti a invertita ti regola gli ohm, a 50 ohm lo porti, perché il dipolo non è 50 ohm, se lo metti in orizzontale, capisci? Ah, vabbè, quello lo sai più tu che avevi studiato con la materia lì. Quella ragazza che io no, non ho. No, avevo anche un libro bello. Due ne avevo belli. Uno era proprio la tecnica per radioamatori. Ce l'ho tuttora, un po' vecchia edizione. Uno bello sulle antenne l'ho dovuto restituire tanti anni fa. Tutto sulle antenne, tutto proprio, tutto di più, non tutto di più. E ce l'avevo anch'io quello delle antenne. E non ho fatto un progetto io, gata, di un dipolo per i 40 metri. Con le cariche, un bel corto è bello, gata. L'ho dato a Franco e Franco ce l'ha costruito, ce l'ha fatto, gatto, ma bello. Cioè solo per i 40 metri caricato, però caricato perdi, cioè, più lo fai raccorciato più perde. No, che lui non l'ha spezzato il filo, l'ha fatto diretto, l'ha fatto. Ti sto dicendo che è uscito un bijou quel dipolo, veramente bello. Eia. Antonello, allora, ma questa mantova si può riparare, cioè si può aprire internamente per ripristinare il polo centrale, oppure non vale la pena, tanto vale comprare la nuova, un'antenna? No, adesso può mettere a posto. Devo smontare, ma è tutto sotto la base, dove sono attaccati i radiali, attaccare tutte le viti, e lei c'è, come si chiama, le... il PL, capito? Perché il PL è agganciato lì. E poi devo staccare la plastica nera del dove c'è la bobina lì sotto, capito? E basta. Poi adesso si può mettere a posto, non è quello proprio. Avevo già fatto una volta nella vecchia mantova tubo che c'avevo quel lavoro. E quando l'avevo sistemata l'avevo piazzata, c'era uno e uno di stazionali, figurati, l'avevo messa in campagna, l'avevo piazzata un paio di giorni a provarla, funzionava benissimo. Poi io, vabbè, mi avevo comprato una antenna e poi l'avevo regalata a Stefano con l'antenna lì. Poi Stefano gli ha dovuto una pura passata di vento forte, aveva spaccato il palo, gli era disintegrato, quindi l'antenna si era piegata e si era spaccato lo stilo, si era spaccato. E infatti ti era lampata. Io ho una Venom messa da parte, nuova, solo collaudata, è stata la VUI, temporaneamente, o ti accontenti del dipolo? Ah, mi accontento del dipolo adesso, là. Poi adesso devo vedere un pochettino, secondo me mi metto una Energy, mi metto 50 anni, capito? 70 euro, tanto io ho già chiesto, dato su internet costa intorno ai 50-60, più la spedizione, siamo sempre lì, hai capito? Adesso il prossimo mese me la prendo. Ma mi avevi detto che dovevi dargli un anticipo, gliel'avevi poi dato? No, non gli ho dato niente, c'è lo scooter, capito? E ho dovuto comprarmi lo scooter, ho pagato 150 euro, adesso devo pagarmi le batterie e mi costa altri 500, di quegli scooter elettrici per invalidi, però è grande questo qui, non è quello più piccolino, simile a quello che c'ha Giampiero, no, quello che c'ho io è più grande, ci sta proprio un sacco grande davanti, capito? L'ho preso solo per farmi la spesa, l'estate, per non stare ogni volta a massacrarmi con queste buste. Sì, abbozzami, suonate, in viale Mameli c'è un casino di traffico. Sempre stanno strombazzando, è una cosa allucinante. Io non suono mai col clacson, non suono mai perché dà più fastidio a me, suono proprio in casi di emergenza eccezionale. Sempre strombazzando qua stanno, e se no le ambulanze che passano qua, mamma mia, la polizia, le ambulanze, tutti qua passano, ci andiamo fatta apposta a fare casino. Guarda, secondo me il punto peggiore è Via d'Italia, è proprio una grossa arteria della città e proprio vanno lì al pronto soccorso l'ambulanza, quindi chi abita lì proprio fronte strada deve essere una dannazione, deve essere anche qua passano tutti qua. Ti sto dicendo che è una cosa allucinante. E Maria, Antonio, cosa stavamo dicendo? Ah, dico, ne ho visti tanti, lo sai, anche per mamma, solo che mamma non ha la prontezza di riflessi nemmeno di frenare, e sarebbe pericoloso secondo me per lei un mezzo del genere. Ci piacevano sia quelli aperti sia quelli coperti, e ce n'era uno che era non bello di più, era meraviglioso, meraviglioso, però d'altronde se lei non riesce poi a camminare per farsi la spesa è inutile che... E quello a lui mi piaceva prima che le gambe fossero davvero messe così male, capito? Adesso no. Non potrebbe scendere dal mezzo, non riuscirebbe manco a salirci perché si deve piegare, non piegare, un minimo, no, da sedersi e alzarsi. Ah, guarda che c'è lo scooter di Villa Celia, belli, chiusi, quattro ruote, 6.000 euro viene, ho già chiesto io, senza patente, senza casco, senza nulla, però se è dentro al coperto, capito, c'è un posto solo, c'è, e basta, capito, e poi dietro, e puoi aprire da dietro per metterci la spesa e cose del genere. Sì, ce n'è tutti i tipi, c'è l'UFO bike, quello della televisione, bianco e azzurro, bellino, sembrava un mezzo dei vigili urbani, ci mancava il lampeggiante blu, il blu sopra. Sì, ci sono parecchi scooter adesso, tutto pieno, tutto, le batterie costano bene e pesano pure. Tu immagina, una di quelle batterie pesa più di 30 kg. Sì, poi quelle al piombo gel sono particolarmente costose. Io l'ho sentito nominare queste piombo gel per i camper, però non so se per utilizzi interni o per il motore, credo però per utilizzi interni. E già c'hanno parecchie avversa, dovevi vedere quello di Giampiero quando l'ha messo ieri maletta, ha detto metti la maletta, ha detto voglio vedere quanto cammina. Cazzo, mi ha caduto fuori, ce l'ha fatto in... Minimo arrivato a essa quella cosa. Figurati, cammina un bel camminami. Poi vabbè, ma lo senti se c'è uno magari che è distratto con le cuffie, non fare tanto che trovatelo davanti. E poi avevo letto, Antonio, che ci sono certi modelli che vanno lenti, no? Come dovrebbero essere questi per gli invalidi, però con un telecomandino, con una piccola levetta o bottoncino nascosto, li sblocchi la velocità e vanno anche un po' più veloci, anche 30 o 40, l'importante è che non ti vedano i controlli, no? Che non ci siano controlli, se non dicono è questo, c'è un mezzo per invalidi che sta trubando, e se no è sporca. Sarebbe troppo sporca, capito? Basta camminare a metà, metto da metà, capito? E cammini tranquillo. Quando sei in salita prendi e sollevi, non è che ci voglia molto, capito? C'è la velocità, la puoi regolare tu, ci sono i pulsanti. E così avevo letto di un monopattino su YouTube, c'era questo monopattino cinese, no? Bello potente, no? Normalmente facevi 20 km orari, no? Poi tu avevi il telecomandino, premevi un tasto e arrivavo fino a 80 orari, però una bara, cioè 80 orari su quel trespolo lì, con quelle ruotine è una bara. Però fino ai 40-50 ancora ti potevi fidare, ma proprio me. E poi hanno visto anche nelle strade fuori città, no? In superstrada, no? Certi monopattini superando la fila di macchine, immaginati. Vabbè, ma cosa non è che ci puoi andare con monopattino? Se ti trovi un monopattino di vigili urbani non sei questa. Di là non ci puoi andare in città con monopattino. E basta. Non è che puoi andare agli punti, no? Dalla superstrada. A meno che non prendi qualche strada che tipo San Giorgio, quello ti posso dire, passi da Sant'Orsola e vai direttamente là, capito? Beh, quella è un po' una fregatura però, chi ha i punti mette che debba andare a lavorare a Sassari, anche all'ingresso di Sassari, in teoria non potrebbe andare, così è. È un po' una mezza fregatura, tanto basta stare tutto a destra, quasi dove passano i pedoni, quasi, e invece no, troppe limitazioni. Poi adesso devono mettere obbligatoria la targa, la circolazione e il casco, e allora tu vuoi uscire in moto. Ma poi devi camminare sul marciapiede, sulla strada non ci puoi camminare con quei mezzi. Appunto, è una limitazione in più, e in più si sono aggiunti casco, circolazione e tutto, vedrai che non ne prenderanno più. Prima ti hanno dato la caramella e poi hanno più vanno e più stringono. Comparte con la bici elettrica che usano gli ucraini, cioè, ti metti che c'è agganciato il bazooka a fianco. Hanno la batteria, quelle che camminano un poco con le biciclette silenziose, fanno più di 80 fanno. Ah, vi volevo dire, tempo fa, sono passati anche mesi, credo fosse in primavera, ecco, ero con gente a Porto Torres, no, con macchina però che non era mia la macchina, in una di quelle vie normali, no? Quelle vie un po' piccole che poi vanno al porto, esce questo bambino che non avrebbe l'età per portare il mezzo, con questo monopattino a Giumai finisce sotto le ruote, abbiamo dovuto inchiodare. Aveva il caschetto da bici, ma era un piccino, non avevo l'età nemmeno per guidarlo. Se conti che magari metti questo esce, lo investi perché non c'è lo spazio per frenare, ti danno un omicidio stradale. Io gli avevo detto al guidatore, no, qua ci sarebbe invece da bloccare la macchina, chiama i vigili urbani e faglielo sequestrare. Capito? Perché poi, se poi succedeva che tu non riuscivi a fermarti, ti davano omicidio, magari lo ammazzavi, ti davano omicidio stradale e ti rovinavano. È la colpa di chi è? Dei genitori, ovviamente. Capito? Il bambino era anche solo, libero, è uscito di botto dalla marciapiede alla strada, senza guardare, senza niente, con un mezzo che non dovrebbe guidare nemmeno. E non lo sai che è così, ma sono i padri e le madri che raccontano quelle cose. Il bambino naturalmente cosa gliene frega, non ne capisce nulla di autostrada. Vabbè, però lì c'era al limite da chiamare il padre e dire, scusi, guarda, io stavo per mettere sotto il suo figlio che è uscito e di botto si è messo in strada. Non ha l'età per portarlo, si dà una regolata, se no chiamano i vigili e se la vede con loro. Capito? Rischi di andare in galera tu per colpa degli altri, come sempre. Purtroppo è così. Non ci puoi fare nulla, no? Capito? Li hanno costruiti, già camminare poco questi corsi. In questa operazione non funziona proprio questa cincio. Adesso la scusa, dammi. Allora, vediamo un po'. Quasi due c'è la stazionale, vabbè, dai. 1,7, 1,8. Sì, vabbè, se dai pochi watt non succede niente, Antonè. Fino a 2 con i watt normali non è critica la cosa. Deve pensare che la GPS ha dato buio, al buio ieri sera l'ho piazzata. Cioè, stavo facendo, sono andato a fare la spera, eccetera, eccetera, quando sono rientrato ho preso e sono salito sopra il tetto. Ho preso la scaletta, sono salito sopra e l'ho piazzato così come mi è venuto in mente. Ho guardato la gancetta tirante, mi sembra che l'ho misurato 2,60, 2,70, secondo me non mi ricordo, una cosa del genere. Dico, vabbè, provvisoriamente già mi va bene così, poi appena ne butto giù la manto, me la sistemo subito. L'importante è che riesca a sfollare i bulloncini, che è quello che mi dà con le palle, quello dei radiali, bulloncini quadrati piccoli. Mi ha distrutto un bel po' di cosa, di CRC. Mi ha dato con i cinesi, quello tipo Svitol. Comunque, Antonè, se l'antenna desse problemi ulteriori, se tu vuoi una cosa tipo Mantova, prendi una Super Lem, quelle ammiraglie grosse, capito? Se poi ti accontenti la Lei Energy è un conto, però ricordati che a qualcuno ha dato problemi, ma non per la pioggia, perché si interrompeva in autonomamente, cioè senza vento, si interrompeva quella, già lo sai, tra la bobina e lo stilo, quel micro filettino, quella saldatura lì, che poi era un casino a rifarla, capito? Sì, già lo so, già, ti avevo del conto. No, ce l'avevo la mia 27 lei, l'avevo regalata a cosa? A Mario, quello del ciclo della Berghiera l'avevo regalata, che però non l'ha mai piazzata, capito? Quindi ne ho avuto di quelle mia 27 lei, grazie a Dio, mai neanche una mi ha difettato, quindi figurati. È anche leggera a me come antenna, va bene, tanto non è che devo caricare di 500 watt, no? Ce l'ho di andare a 500, ma devo ripararlo, se non se ne parla per adesso, lo farò in seguito, poi vabbè, è una cosa provvisoria a me, che rimetto la mia 27 L, poi quest'estate la rimetto dopo sulla mantova, la pulisco bene e la rimetto